sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. An open smile on a friendly shore. It's love. It's love. Yeah, the love. Soon we'll be making another run. The love. Promises something for everyone. Set a course for adventure. You might. Star Trek, sono le ore 23 in punto, tipo radio anni 70. Era lui, Jack Jones, con Love Boat, la colonna sonora, una delle tante, perché poi c'è anche la colonna sonora affidata a Little Tony, Mare e profumo di mano, non so se le ricordate. Sì, certo, penso proprio che la ricordate. Ancora un saluto a Mazza che ci ricordava questo telefilm americano. Noi abbiamo selezionato questa colonna sonora. Spero ti piaccia, Marzia. E tutto così, sempre con molto divertimento, perché siamo qui principalmente, insomma, per divertirci. Questa è Star Trek, Viaggio nella storia della musica, in compagnia di Andrea e soprattutto in compagnia della nostra musica, che come potete sentire è decisamente varia. Ascoltiamo un po' tutto quello che ci piace, che ruota attorno alla musica, perché la musica, insomma, è il fulcro di Star Trek, è proprio il fulcro di Star Trek. Abbiamo il teletrasporto, sarà qualcuno che arriva a bordo, vediamo un po' chi c'è, perché ogni tanto, sapete, noi abbiamo questi personaggi che ci vengono a trovare. Voglio proprio vedere chi è che è salito a bordo dell'astronave Enterprise. Vediamo un po', mi comunicano che sta arrivando sul ponte. Vediamo chi c'è, vediamo un po'. Voglio proprio vedere chi c'è. Chi è che c'è? Allora, mostrati, no? Direi, chi è che sei? È timido. Non si fa sentire timido. Chi sei? Allora, dai, fantastico. Pronto? Poste, c'è un pacco per lei. Sì. Lo deve venire a ritirare subito. Ah, sì? Che c'è roba che va male. Che cos'è? Uova! E da dove vengono? Infatti. Dal culo della gallina, ma signora! Dai, non ho parole. Non ho parole, noi abbiamo questi personaggi assurdi che ci vengono a trovare, l'avete riconosciuto tutti. Era il mitico Bombolo. Vengono a trovarci praticamente, salgono a bordo con il teletrasporto, così casualmente, e vengono a disturbare il sottoscritto, insomma, vengono a disturbarmi. È un bel disturbo però, perché quando c'è Bombolo e anche magari Thomas Miller, insomma, è sempre un bel ascoltare, sono dei grandi simpaticoni, dai. Tanto per dirla all'italiana, ora un po' di disco music, questo è Carl Williams, ora lo mettiamo su veramente, perché prima abbiamo un po' tentennato. Body. Love Is You, questa era Carol Williams, versione vinile della canzone, versione 45 giri, che è un po' più breve, diciamo così, ora viene definita versione radio. Siete sempre saldamente all'ascolto di Star Trek Viaggio nella storia della musica. Chi vi sta parlando è Andrea. Vi ricordo ancora www.startrekonline.org, il nostro sito dove potete direttamente interagire con la trasmissione. Potete anche mandarci un saluto se avete voglia, o su Twitter, il mio account è @demangia, scritto THEMANGIA, oppure anche sugli altri social network. Comunque voi visitate www.startrekonline.org e lì trovate tutto. Ancora il teletrasporto. Questa sera è una cosa, ragazzi, non ho parole, cioè è un continuo passare persone a salutarci. Voglio vedere chi è salito a bordo dell'astronave Enterprise in questi istanti. Chissà chi c'è, voglio proprio vedere chi c'è. In faccia era più liscio della cera. Che barba si era fatta quella sì. Era una bomba, infatti mi sono detto, non so più io se non la porto a letto. Tutto sembrava fuorché un travestito. Non sono ragazzi, scusate. Abbiamo sempre questi deliziosi ospiti. Vabbè, dai, visto che sei venuto a trovarmi, t'ho riconosciuto, questo era il mitico Franco Califano, dai, noi scherziamo un pochino anche, vabbè, dai, per stigmatizzare un po' sulla situazione. No, perché se ormai in Italia è diventata una cosa, voi aprite i telegiornali, ogni giorno sembra un campo di battaglia, questo ammazza questo, l'altro ammazza l'altro, questo mette una bomba, dai. Cioè, cerchiamo di tornare allo spirito degli anni Ottanta, goliardico, quando si era un po' tutti più spensierati. Voi che ne pensate? Era Franco Califano, che l'abbiamo ospitato casualmente qua a bordo dell'astronave Enterprise, però non del tutto, perché devo essere sincero, è uno dei miei artisti preferiti per quanto concerne la musica italiana, quindi è sempre un piacere ospitare Franco qua a bordo dell'astronave Enterprise. Facciamo proprio una piccola cronistoria, piccolina piccolina, di Franco Califano, che nasce a Tripoli il 14 settembre del 1938, poi purtroppo scompare a Roma il 30 marzo del 2013. È stato un cantautore, paroliere, produttore discografico, poeta, scrittore e attore italiano, quindi insomma poliedrico veramente. Considerato uno dei cantautori più originali del panorama musicale italiano, durante la sua carriera ha pubblicato 32 album e scritto complessivamente, tra poesie e canzoni, oltre 1000 opere, oltre a numerosi testi per altri artisti, molti dei quali diventate vere e proprie hit piazzate in vetta alle classifiche italiane e internazionali. Negli anni 70 e 80 i media hanno posto spesso l'accento più su alcuni suoi aspetti della vita privata che sulla sua vita artistica, a causa, come ben sapete, del suo stile di vita molto molto sregolato. È tra gli artisti italiani, pensate un po', che ha venduto il maggior numero di dischi, con oltre 20 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Nella sua carriera ha collaborato con numerosi artisti, come non citare Mina, Mia Martini, Ornella Vanoni, insomma Edoardo Vianello, Peppino Di Capri, Ricchi e Poveri, Umberto Bindi, eccetera eccetera. Ha collaborato anche con Tiro Mancino. Negli ultimi anni della sua vita ha collaborato anche con questa band emergente. Poi possiamo un attimo, diciamo così, parlare anche di Califano proprio personaggio. Purtroppo è scomparso, come ben sapete, nel 2013, è stato veramente un personaggio perché spesso era ospite in televisione e lui non ha mai nascosto, insomma, la sua vita molto molto sregolata. Forse anche per questo che ne ha fatto un personaggio per certi versi mitico. Ecco, noi abbiamo purtroppo finito, perché sono 11 minuti primi dopo le ore 23, come ben sapete Star Trek dura all'incirca 30 minuti, abbiamo iniziato alle 10.45, quindi siamo veramente al rush finale. Quindi l'ultima canzone che vi dedico, che è stupenda, meravigliosa, potrei andare avanti all'infinito, immensa, eccetera eccetera, è per l'appunto di Franco Califano, che ci propone proprio questo brano dal titolo Amante del pensiero tuo. Ecco, io mi fermo qua, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, ci ritroviamo prossimamente con un ennesimo Star Trek viaggio nella storia della musica. Grazie ancora a Marzia per la bellissima mail, molto gradita. Se volete scriverci anche voi potete farlo, basta andare sul sito www.startrekonline.org. Grazie ancora a tutti, io mi congedo da voi e ora, come si faceva tanti anni fa al Festival di Sanremo, signori e signori, ladies and gentlemen, per voi il grandissimo Franco Califano con questo brano dal titolo Amante del pensiero tuo. Canta Franco Califano. Buonanotte a tutti. Poco mi importa se a volte il tuo corpo ad altri concedi. Basta si tratti soltanto del corpo, dal collo ai tuoi piedi. Quello che fai per sfogare una voglia non lascia mai tracce. Non mi tradire col cuore e la mente e salvi la faccia. Un'ora che avrà nessuna importanza, tu dopo dirai che schifo di stanza. Poi tutto sarà sepolto in un freddo bidet. E io rimango amante del pensiero tuo, nel tuo profondo scendo solo io e seguito ad amarti a modo mio. Poi tu hai fretta di tornare ad essere tu, per questo accetto e mando sempre giù. Nient'altro esiste più. Poco mi importa se chiedi ad un altro un po' di piacere. Quello che io da oramai troppo tempo non ti so più. Per quello che può servire, dedicata con tutto il cuore a Henry questa canzone. La dedico a lei, Henry. Ciao. Ecco perché un tuo amante non può insediare il mio posto. Un'ora che avrà nessuna importanza, tu dopo dirai che schifo di stanza. Poi tutto sarà sepolto in un freddo bidet. Ed io rimango amante del pensiero tuo, nel tuo profondo scendo solo io e seguito ad amarti a modo mio. Poi tu hai fretta di tornare ad essere tu, per questo accetto e mando sempre giù e seguito ad amarti sempre più.